dai di storia. Volevamo sapere se sai cosa è successo qui 40 anni fa, 12 dicembre del 68. Sì, lo so, è successo un attentato, un'esplosione che non mi ricordo quanti morti né quanti si è fatto. È stata attribuita a un gruppo extraparlamentare di destra. Ed erano gli anni dello stragismo in Italia, quindi queste tende di piombo e nulla. La rivendicazione dell'attentato era... Sì, un gruppo parlamentare di destra, quindi non ricordo. La rivendicazione, però sì, i motivi dell'attentato no, adesso non si può. E volevo sapere se sai poi se è mai stato riconosciuto, trovato un colpevole. Un colpevole, no, per quello di Piazza Fontana mi sembra di no, non è mai stato giusto. O sì. Perfetto. Ah, ti ricordi che altri attentati ci sono stati nel periodo? Dunque, la stazione di Bologna è stata prima, qualche anno prima, e poi a Firenze anche, sempre in quegli anni. Adesso non sfugge, altrimenti. Pronti?